Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Parliamo innanzitutto della stabilizzazione di Cipro, il programma pluriennale presentato da Cipro per il risanamento dei conti e le riforme necessarie per avere gli aiuti dell'UE e del Fondo Monetario, prevede un aggiustamento fiscale ben ritmato e riforme strutturali comprensive di ogni aspetto, anche se restano sfide significative. Insomma, segnale di via libera da Olli Rehn e dal direttore del Fondo Monetario Christine Lagarde questa mattina, che a sua volta ha annunciato che l'Istituto di Washington parteciperà con 1 miliardo di euro al pacchetto di salvataggio, che ne vale 10 miliardi complessivamente. La Commissione europea sostiene fortemente la risoluzione rapida del debito commerciale che pesa sulle imprese italiane e dice può essere fatto, assicurando nello stesso tempo l'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo, che è a sua volta importante per la sostenibilità delle finanze pubbliche. Così questa mattina la Commissione, in relazione proprio alla posizione dell'esecutivo UE sul decreto italiano in preparazione, in attesa, lo abbiamo sentito poco fa, nel GR sul pagamento degli arretrati alle imprese da parte della pubblica amministrazione. L'India ha detto no a Novartis, negando il brevetto sul grande mercato indiano per l'anticancro Glivec. Secondo Vittorio Prodi, che è membro della Commissione Sanità del Parlamento Europeo, questa sentenza è un monito per tutti. Lo ha intervistato Valeria De Rosa. Noi ci abbiamo ragionato parecchio, ecco, perché diciamo il sistema brevettuale è quello che ha garantito ricerca, sviluppo e progresso. Ecco, certamente ci sono delle situazioni in cui le cose sono state portate troppo avanti, perché se è vero quello che hanno letto i giornali, cioè che appunto si tratta di una piccolissima variante della molecola, e questo per cercare di prolungare la vita del brevetto, che evidentemente è contrario al patto brevettuale, che cioè il monopolio in cambio di conoscenza per la società. Dovremmo togliere degli alibi alle case farmaceutiche, le aziende farmaceutiche si fanno schermo di questo costo, perché è un farmaco portato sul mercato complessivamente arriva a costare un paio di miliardi di dollari, ecco. Quindi il finanziamento pubblico è una di queste cose, la ricerca è necessaria, dobbiamo cercare di farlo funzionare, e questo è un monito, questo del pronunciamento della Corte Suprema indiana, è un monito perché il gioco sia leale. Un gioco dal valore di oltre 10 miliardi di euro. Bene, un altro tipo di impresa altrettanto importante per certi versi è quella del calcio, che è sì spettacolo, sport, ma è anche impresa. Per questo il Real Madrid finisce sotto inchiesta UE per aiuti di Stato. La decisione della Commissione arriva dopo che un'iniziativa analoga è stata presa anche per alcune squadre olandesi. Gianluca Monte, membro dell'unità sport della Commissione europea, al microfono del nostro Dario Ricci. C'è stata circa un mese fa anche un'inchiesta aperta nei confronti di possibili aiuti di Stato verso delle squadre olandesi. L'apertura di un'inchiesta significa che la Commissione decide di analizzare il tipo di aiuti, di sovvenzioni che vengono date a certe società private, come possono essere appunto delle squadre di calcio, nel caso in cui queste sovvenzioni sono ritenute aiuti di Stato, gli aiuti di Stato devono essere restituiti. È vero che già, diciamo, qualche anno fa c'era stato proprio in Italia il caso Salva Calcio, che anche lì era stato, diciamo, in parte criticato dalla Commissione europea e poi cambiato in corso di applicazione, perché effettivamente le squadre di calcio sono, per quanto sia un settore particolare, ma sono imprese molto spesso che agiscono in un mercato europeo. Borse europee statiche in attesa della BCE, su questo punto vi aggiorneremo intorno alle 15, ma i listini del vecchio continente intanto vedono lo Stock 600 registrare un timido più 0,01 proprio in attesa delle parole del presidente Mario Draghi, che dovrebbe lasciare i tassi invariati allo 0,75%. E ora un consiglio in arrivo da Federico Taddia. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare la quarta tappa del tour che i commissari europei stanno facendo in Italia per ascoltare dal vivo le istanze dei cittadini e rispondere direttamente alle loro domande. Venerdì 5 aprile l'appuntamento è a Pisa con il commissario per l'ambiente Potocnik e l'incontro riguarderà le politiche sull'acqua, sul territorio, sulla gestione dei rifiuti e sull'uso sostenibile delle risorse. L'evento si svolgerà dalle 9.30 alle 11.30 presso la stazione Leopoldina, ma tutti potranno mandare le proprie domande via Twitter utilizzando l'hashtag EUDEB8 e seguire il dibattito in diretta via streaming. Per informazioni www.dialogocittadini.it. Fabio Cantadori in regia, Gigi Donelli al microfono. Europa 24 torna domani alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.